Quindi diciamo che ormai dopo più di una diverse ore hanno cercato di liberare la strada con le ruspe, ma in questo momento, proprio mentre vi sto parlando, le persone stanno riprendendo possesso delle carreggiate dell'autostrada. Quindi diciamo che il lavoro non ha funzionato, anche questa volta la valle continua a resistere e centinaia di persone stanno di nuovo rioccupando le corsie dell'autostrada, quindi il presidio rimane qua, la valle continua a resistere e nonostante la militarizzazione e i numeri spropositati di forze dell'ordine siamo ancora qua, insomma. Quindi in questo momento sembra che le truppe si stiano allontanando. Quindi la strada è nostra di nuovo e l'occupazione permanente dell'autostrada, il presidio Altranza va avanti, quindi questo per come aggiornamento positivo. Continua ad arrivare verso tutta la valle e in questo momento chiaramente c'è molto entusiasmo perché appunto non si credeva di riuscire a riprendersi l'autostrada anche così rapidamente, quindi va bene, insomma, i segnali ci sono, la voglia di lottare ancora è tanta, le persone... appunto giovani, anziani e famiglie sono tutti qua e quindi diciamo che questo movimento sta dimostrando ancora una volta di avere tutte le carte in regola per poter mettere in discussione questo progetto devastante che vuole essere l'alta velocità. Quindi niente, insomma, sappiamo che sono sicuramente stata anche una nottata molto intensa, ci sono state altre iniziative ieri sera con delle cariche lungo l'autostrada, chi era andato a occupare il presidio, chi era andato a occupare l'autostrada più a nord, diciamo l'accesso verso la Francia è stato caricato, però ugualmente insomma con l'insicurezza sono riusciti ad allontanarsi tutti, quindi nell'arco della notte ci sono state decine di fuochi per continuare a tenere viva, insomma, e anche riscaldare un po' l'atmosfera. Continua l'organizzazione dell'occupazione con persone che portano, diciamo, viveri, mangiare, ognuno contribuisce per quel piccolo che può, insomma, ed è proprio questa la forza, diciamo, appunto, di questo movimento. Quindi se non ci sono altre domande io vi saluterei e nel caso appunto vi potremo aggiornare nell'arco della giornata, perché come diciamo sicuramente avverrà, ci saranno altre iniziative, insomma, diciamo che la valle sveglia 24 ore su 24, continuiamo con ansia ad attendere novità rispetto alle condizioni di salute di Luca e anche in qualche modo questa, appunto, questa risposta così forte è dedicata a lui e a tutte le persone che sono ancora private della propria libertà, quindi continua la rivendicazione appunto da parte e anche appunto la pretesa della liberazione di tutti coloro che sono ancora private della propria libertà e continuiamo insomma in presidio fino a che non abbiamo novità positivi rispetto alla salute del compagno che è stato quasi ammazzato ieri. Sì, infatti, perfetto. Noi siamo contentissimi sinceramente di questa notizia perché tutti i giornali adesso stavano dando il blocco come sgomberato, quindi siamo contenti che siate riusciti a risalire su. No, ti volevo chiedere una cosa, prima da alcune immagini abbiamo visto delle persone che erano fermate oppure abbiamo visto... Scusate, dalle immagini avete visto delle persone? Perché c'è il Corriere e la Repubblica che stanno mandando in diretta gli scontri e praticamente si vedono delle persone portate via, ti risultano dei fermati o oppure semplicemente... Guardate, veramente io non parlerei di scontri, cioè, no, ma non perché vogliamo dare una visione più pacifica della situazione, ma c'è proprio una ripresa di possesso dell'autostrada che è completamente pacifica, è stato il movimento dei corpi che in qualche modo è la loro unione, insomma, che ha impedito lo sgombro di forzata. In questo momento non ci sono né scontri né gas lacrimogeni, se prima c'era fumo erano delle balle di fieno che avevano preso fuoco, diciamo con un aneddoto così anche divertente, nel tentativo di spegnerlo il cordone di polizia si è affumicato completamente per 20 minuti, quindi in qualche modo sono anche loro vittima dei loro stessi metodi, quindi dopo mesi che continua a gasare questa valle, anche loro respirano insomma un po' di merda, se la meritano tutta, diremmo. Sì, insomma, se la meritano tutta. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, allora ci risentiamo dopo. Per degli aggiornamenti. Va benissimo. Grazie. Va bene, un saluto a tutti e a tutte. Anche a voi. Ciao. Intanto vi facciamo sentire lo streaming di Blackout, che stanno facendo un aggiornamento anche loro. Quando continueremo a farlo qua dai microfoni, insomma, l'unica voce che può lanciare questo appello è la nostra, e lo faremo continuamente tutta questa giornata. Bene, è per questo che vi ho chiamato, ok? Grazie.